quindi li avevo cambiati anche io, perché le canali che avevo non c'era nessuno, mi avevo comprati qua, se era GBC, e me li cambiavo, ne avevo messo il canale 11 che era frequentato, poi non mi ricordo che altri canali, 14, e i canali dove c'era gente, era... Sì, sì, esatto, anche io avevo fatto così, capito, alla GBC trovavi tutto prima. Beh, Marco, hai provato a sentire Antonello? Sì, sì, sì, così pare. Pare sia morto Tonino della GBC, che abitava, credo, in zona o vicino. Dice che il negozio era un paio di giorni chiuso. Allora sono andati a casa sua, carabinieri e tutto, hanno dovuto buttare giù la porta. Questo per voci riferite, e l'hanno trovato senza vita. Ma, poveraccio. E comunque sì, mi ha confermato che aveva una malattia non proprio, una cosa un po' seria da tempo. E poverino, sì, lo stavo dicendo a Gianni, infatti. E vabbè, anche lui si è ammalato, poveraccio. Era un po' un'istituzione lì alla GBC Tonino, dai, che era tanti anni. Io lo conosco dalla fine degli anni, metà anni 80, 85 in poi, capito? Io ero entrato nell'84, beh, meno male i negozi di riferimento erano quelli, Fusaro e GBC mi pare, che ricordi, eh. Vabbè, noi andavamo anche da altre parti. Gianni, riprendi. C'era anche quello di Viale Umberto, sì, diciamo quelli dove andavi di più erano qui. C'era quello che c'era in Viale Umberto dove lavorava Tore Chopin, poi hanno aperto diversi, c'era quello via Principessa Maria. C'era anche Melchioni, io li compravo lì quasi. Poi, mamma mia, entrare in quel negozio mi sembrava di entrare in una grotta, tutto al buio, fa caldare. Ladri, certi prezzi già. Coso, Carlo, io mi ricordo quando ero ragazzino, appunto nell'84, ero tredicenne, i quarzi deportati li compravo da Vittorio Scarpa, aveva anche quelli, i primi portatili in assoluto, dalla 27, li abbiamo presi da Scarpa. Vittorio quello grasso, tu stai dicendo, Marco? No, no, Vittorio Scarpa, elettrodomestici, proprio lì all'angolo tra via Prunizzede e via Luna e Sole. Non so se tu l'avessi conosciuto all'epoca, ma ha fatto la storia degli elettrodomestici, poi è arrivato Jean, tutti i grandi centri e l'hanno, come dire, l'hanno triturato, soffocato, capito, non c'era più mercato, andavano tutti nei centri commerciali, se no da una vita compravano televisori, videoregistratori, scaldabagni, di tutto. Un messo ce li compravano tutti, i televisori, il radio, lo stereo, l'hanno comprato, tutto lì comprato. Sì, esatto, sì che l'ho conosciuto Scarpa qua, il negozio proprio qua sotto casa era. Già me lo ricordo, io avevo preso i primi telefonini, avevo fatto il contratto con la SIM, il numero che ho me l'avevo scelto lì, ce l'ho e mi è rimasto da allora il numero di telefono che ho io, capito? E l'avevo preso da Scarpa, era ben fornito, aveva di tutto, E la voglia, rimaneva lì in angolo, proprio dove ci sono i cassolici di fronte. Eia. Ma io mi ricordo quanto lavorava tra lui e Porcella negli anni 80, almeno il 70 era troppo piccolo, non me lo ricordo, però alla fine andavi lì. Poi te l'ho detto, è stato affondato dai grandi centri commerciali, le grandi catene, Troni, coso, capito? È la fine di un'epoca. Vabbè, vai Carlo. Quello di Via Roma, Marco, come si chiamava? Allora, Via Roma, diciamo un po' all'inizio a destra, Cineradio 33 che io ricordi, cioè non era il Cineradio dell'emiciclo, era Cineradio 33. No, no, Via Roma su era, poi si è arrivati alla fine. Ah, Io ho ricordato via Principe Samaria, ho ricordato via Lomberto, che poi i primi baracchini li abbiamo presi là, o quasi, Adriano, si chiamava Adriano, ma sto parlando proprio dell'84, poi quel locale era passato a Marco Michi, mi pare, era in via Roma parte alta. Boh, Carlo, tu sei forse più grande di me, se te lo ricordi tu. Quello di via Roma no, però adesso che quando tu mi hai ricordato Forcella prima, che era il negozio che era lì dietro via Oriani, là sotto, io conoscevo Vittorio, infatti quando tu hai detto Vittorio prima scarpa, io mi stavo confondendo e ho pensato a Vittorio Forcella, che era il figlio, era grasso, abitavano qua in via Gorizia, di fronte alla pasticceria, abitava lì e più o meno a scuola andavamo insieme, tante volte mi dava un passaggio in moto perché Vittorio aveva la moto, capito? Ma ero già ragazzo grande delle superiori, che le avevo finite a Sassari, io poi le superiori. Cineradio, qualcosa del genere, quello dell'emiciclo me lo ricordo, che aveva qualche radio nella vetrina. Avevo comprato lì una radio, un baracchino della General Electric, capito, che era di quelli non omologati, che disturbava mezzo paese, capito. Però quello di via Roma non me lo ricordo. Io sì, mi ricordo che aveva una vetrina esterna attaccata al muro. E vabbè, comunque non mi ricordo chi fosse, comunque è famoso perché fa impianti anche adesso, non so dove sia adesso, però fa impianti di antenne. Aspetta, c'ho un dubbio. Gianni, c'ho un dubbio, non stare dicendo via Lomberto, Paolotto, no? Sì, mi sembra Paolotto, sì, ma non era via Lomberto, era via Roma, avevo il negozio via Roma, me lo ricordo bene. Ah, forse all'epoca, io Paolotto l'ho conosciuto sempre in via Lomberto, salendo a via Lomberto Alta, salendo a sinistra. Sì, era anche lì dopo, però io l'ho conosciuto in via Roma. E comunque c'aveva baracchini, c'aveva tutta questa roba qua, poi ce n'era uno in via Principessa Maria, che io non sono mai andato, ma lo sentivo nominare. Camere, cose del genere. Allora avete parlato assieme, avete ripreso assieme, passato Carlo. Sì, Paolotto faceva installazioni serie, insomma, si faceva, ho sentito pagare profumatamente, ma d'altronde, ascolta, si paga la qualità e il nome, non lo so, io non so niente. Vai Gianni, ripeto. Guarda se che c'è anche Sampi. Si deve essere stufato, poveraccio. Ho avuto qualche problema all'apparato perché si è ammassato di colpo. O è la batteria che si è consumata. Vabbè, quello è il meno, però se c'è il mic originale potevo metterlo. Casomai da domani rimetto il minaretto, capito? Così mi sente almeno. Poi che altri c'era di roba di elettronica? Vabbè, Melchioni, io mi ricordo, perciò ho fatto quella battuta prima, io mi ricordo da Melchioni, il President Jackson, quello bello, la versione sia nero sia un po' cromato, non silver, quando tu lo vedevi su CQ elettronica 330, 350, lui 450.000 lire, cioè della prima metà degli anni 80, era un furto. C'è la Grassi, Mario Medue che vendeva parecchi. Sì, Mario poi di fronte a casa, lui prezzi baracchini, prezzi onesti, onestissimi a dirla tutta. C'era, sì, Grassi a coso, poi si era spostato, eccetera. E tutti stanno un po' sparendomi già. Vai Carlo. Sì, Grassi me lo ricordo anche io, sì, e anche io giravo, eccetera. I negozi erano quelli comunque, ma molti sono tutti spariti. Adesso se poverino è morto Tonino della GBC, chiuderà tutto lì, a meno che non prendano, perché di roba ne aveva, era pieno di scatole, di tutto, lì c'aveva di tutto lui. quindi chissà se era il suo il locale o se pagava l'affitto, non ne ho la più pallida idea. E quello sarebbe bello se lo prende qualche giovane che magari ha voglia di fare, lo rimette tutto a posto e continua con GBC. Adesso la GBC ce l'ha vecchio. Come già? Ce l'ha usato la GBC. Eh sì, ma possono essercene anche diversi, capito? C'è GBC online, sì, il marchio GBC ce l'ha anche Fusaro, certo, però se uno vuole aprire GBC glielo fanno aprire, mi sa che c'è anche ad Alghero la GBC. Oh, mi chiedevo una cosa. Sì, Marco. Adesso ci vorrà veramente Gesù Cristo a fare l'inventario di tutta quella roba che c'è in scatola lì, più il magazzino, guarda che c'è una cosa sconfinata. Eh sì, il locale è grande, io me lo ricordo quando era un po' più in ordine, che lui andava dietro, poi ce l'aveva, c'era il bancone a ferro di cavallo, entravi e sulla destra c'era uno stanzone grande, poi dietro aveva altro spazio, invece entrando a sinistra c'era una scaffalatura e lì finiva con la parete, capito? Però prima era tutto ordinato, capito? E sapevi dove mettere le mani, anche lui trovava tutto, cavi ce li aveva dietro, capito? E adesso sarà un manicomio lì, fare l'inventario di quella roba, uiaia. Gianni, ci sei ancora? Sì, un secondo. La notizia sta girando, Oh Carlo, ho acceso il ricevitore e ne stavano parlando anche VHF. Tra l'altro c'è un c'è qualcuno che sta mettendo portante in mano amatoriale. Questo è da un po' di tempo. Ma concisemmo. C'è qualcuno che l'ha messa anche qui la portante, ma ci puliva la. Il QRM, capito? Non faceva un cavolo perché Carlo passava, tu passavi qui. Una banda amatoriale dove? Allora c'è qualche bambino Filiberto che sta mettendo portante in banda sua 525 già da un po' di tempo e non solo lì. Io sono 525, non ce l'ha portante. Ah, se li ho sentiti adesso, la sento io la portante, che Claudio, e stavano parlando Roberto e Coso. E Gianfranco. Una specie di pernacchia sta mandando. Come me ne la senti tu? Una buona serata. Ciao Gianni, mi hai parlato sopra. Ti ho detto che Roberto e Gianfranco arrivano a fondo scala. Magari la coprono, non lo so. Comunque la notizia l'avete saputa, sì? Di Torino, GBC, sì. Dice l'hanno trovato morto. Eia. Comunque vedi che ne stanno parlando anche adesso. C'è qualcuno che fa delle pernacchiette, mi. O roba del genere. Ed è già un po' di tempo. Ma. Ehi, lascialo va. Lascialo a me se lo viene fresco. Ciao Claudio, stavamo parlando di quello perché anche a noi ce l'ha detto adesso poco tempo fa, lo stava dicendo Antonello e niente, Marco adesso l'ha chiesto e ce l'ha confermato che anche lui aveva saputo che l'hanno trovato morto, purtroppo, dai poverino, anche lui già ne ha battagliato in quel negozio. Ma era diventato un barbone, non c'era più con la testa. Già l'ho visto, era messo male, capito, però dai poveraccio, sempre in quel buco, una grotta l'aveva fatto diventare quel negozio, mamma mia, da come era insomma è diventato. Adesso chi prenderà quel negozio in mano, mamma mia, chissà cosa trova. Non so come va a finire, comunque va bene, dai, vi saluto che devo andare in cucina, sono entrato solo per quello. Lo sto seguendo a 5.25, però non so, vabbè. Dopo dai, vi saluto, ciao a tutti. Ciao Claudio, alle prossime. Ehi a Claudio, sì, sarà qualcuno con un portatile o in baramobile o roba del genere. Comunque qua la sento, qualcosa la sento, non mi copre nessuno, però è da un po' che sta rompendo le balle e lì la cosa è già più delicata, capito? non è il 27, no? Vuol dire che ancora qualcuno, perché noi ci abbiamo le tattiche, hai capito? Non è che parliamo molto, noi facciamo direttamente, capito? Quindi lo sai come funziona, se disturba evidentemente ancora non stanno fatica a nessuno. Se dovesse disturbare bene, stai tranquillo che dura molto poco, ma molto poco proprio, perché con le attivazioni che abbiamo, stai pur certo che ce lo pizzichiamo subito. Va bene, bene, ci sentiamo. Ehi a Claudio, grazie di essere entrato e ci sentiamo quando capita. Dai, siamo abbastanza in radio stasera, adesso devo stendere pure la roba e altre cose. E così a turno è entrato Coso, Profeta, è entrato Franco, vabbè come lo chiamiamo noi, Binario, Antonello. E poi è andato in farmacia a fare commissioni, era fuori, e quindi mi ha dato la conferma di Tonino, eccetera. E stavamo facendo, vabbè, la battuta, non era una battuta, ha detto ci vuole Gesù Cristo a fare l'inventario di quel locale adesso, con tutta quella roba chiusa in scatola, oh Claudio. Sì, è roba in scatola, il mondezzaio è diventato dentro. Diventato mondezzaio. Comunque, non so come andrà a finire. Sicuramente le revocano la licenza GBC, quindi la prenderà Fusaro. Non so, vabbè, comunque quel negozio se c'è uno che ci sa fare fa un sacco di soldi. Poi non so. Ah ecco, lo sto sentendo anche adesso. Sì, arriva. Arriva due, ma fa, non fa le pannacchie, parla, quello lì stai dicendo. Insomma, la gente si diverte anche a disturbare le frequenze dei radioamatori adesso che vanno avanti. Va bene che con tutte queste radioline cinesi che vendono, capito, a poco prezzo, la gente si pareggia e si mette lì a rompere le palle. Sì, sono quei boffeng, magari sentono gente a parlare, non sanno manco che sono frequenti alla Curiale. Si sente dalla voce di un ragazzino, capito, qualche bambinetto. Non era né a Roberto né a Gianfranco, quindi lasciatelo fare, poi si vedrà. Ma boh, ciao ragazzi, dai che devo andare in cucina, ciao Carlo, Marco e chiunque fosse in ascolto, ciao ciao. Ciao Claudio, e anche noi adesso mi sa che ci dileguiamo perché abbiamo tante cose da fare, riprendi Marco. Eia, va bene, anche io stacco, dai, faccio queste cose in casa, diciamo, si fa tardi, è un macello. Volevo chiedere un'ultima cosa a Claudio, se c'è ancora, se la modulazione attuale la ritieni passabile e se è abbastanza amplificata o normale. Va bene, lasciala stare, ti ho già sentito prima, lasciala così. Ok, va bene, dai, stavo provando una coppiata. No, perché ho scoperto che il cavetto, avevo un cavetto per il CRT 9009, adattatore, no, per passare da 6 poli a 4 poli. E credevo che funzionasse solo lì. Invece poi ho scoperto che funziona su, quindi sul 9009 della CRT, su 3 President, sulla Linco e forse su un altro ulteriore CRT omologato. Alla fine questo adattatore si adatta a un media apparato che ci hanno, ho controllato in rete, la stessa medesima P di natura, e io non lo sapevo all'inizio perché non ci avevo badato. Va bene, ciao Claudio, chiudo anch'io, ci sentiamo, Carlo, tutti gli ascoltoni, tutti quanti, dai, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao, buonasera a tutti, ci sentiamo alle prossime.